schiarisce la voce, al mattino rincorre, di ogni piccolo dettaglio non ne ricorda affatto più il colore. Osserva incantato il mondo in cui è approdato, ritrova i primi segni e le vertigini per quei luoghi sconosciuti. Gli anni passano e i giorni volano lontano, i ricordi tanti sono tutti nei ritagli che hai portato con te, che hai portato. Alcuni non li hai voluti, ma li hai ben fotografati. Hai costruito un tuo rifugio ben raccolto e organizzato. Gli anni passano e i giorni volano lontano. Pensavo, ma non sapendo che ti avrei incontrato qua, fosse vero che sei mia, fosse solo